in onda Piazza Alta, un programma di e con Marci e Enzino, alla conduzione tecnica Simone. Hone. Giovedì 18 dicembre 2014. Confermo. Questa è Piazza Alta, questa lo è Radio Santo F. Natale si sta avvicinando. Ma noi stasera non parleremo di questo. Assolutamente. Siete no. pronti? Sta per iniziare un'altra puntata. Si sente già l'eccitazione mia? Sì, sì. Si sente un po' troppo. Dillo te allora, dai. Buonasera. Benvenuti su Piazza Alta. Di cosa parleremo stasera? Diamo un accenno subito perché è fondamentale. Stasera parleremo di tennis. Mamma, incredibile. Che bello. Turtle have a short legs. Senti, questi inglesi ogni sera. Bentornati. Questo è un disco, il Taco Tomago del 1971, dei Can. Simone? Can, proprio e solo can. In fine di trasmissione diremo qual è il collegamento tra questa canzone e l'argomento no, di stasera. Allora, tra l'altro questa è una banda, dai, vado via, ciao, buonasera, arrivederci. Una band poco nota al grande pubblico, ma tra le e più influenti, pensa caro mio Marzi, i citati degli anni 70. Gli eccitati? Eccitate negli scusa, anni 70. Scusa. Un inizio disastroso, tanto per fare, ma finalmente abbiamo iniziato la puntata. Allora, chi siamo? Cosa siamo? Dove andiamo? Dillo te. Allora, chi siamo? Siamo Enzino e Marzi e non mi sto a dilungare troppo sulla parte tecnica, sulla scelta musicale. un saluto. Un saluto a Simone. Ciao Simone. Questa è Piazza Alta. Salutiamo anche Paolo che sta già facendo le riprese. Certo. Ciao Paolo. Questa è Piazza Alta. Bravo. Un programma radiofonico che ormai sta sfondando, direi che ha già sfondato la sua seconda edizione. Un programma radiofonico che potete ascoltare, se già non lo state facendo, sulle frequenze in FM 101.2, in streaming su www.radiof.it oppure scaricando l'app sia per Apple che per Android sull'omonimo sito. No, sì, vabbè, quando ti ho conosciuto non sapevi parlare. Detta questa cosa, la chicca veramente importante è il nostro profilo Facebook, cioè? Con il quale possiamo interagire immantinente. Esatto, già potete vedere delle foto che stiamo pubblicando su questa serata. Sì. Abbiamo già svelato chi è il nostro ospite, che no, salutiamo. No, non l'abbiamo svelato, sì, abbiamo detto Facebook, l'argomento. Sì. Ah, sì. Allora. Vedete? Ecco l'importanza. Permettetemi, sono emozionato. E questo ce l'hai già detto. Ve l'ho già detto? Vediamo già, puliscici. Sì. Allora, sicuramente tutte le puntate che abbiamo fatto sono state bellissime e gli ospiti che abbiamo avuto sono stati straordinari. E la musica è eccezionale. Ma questa di stasera, a mio parere, e nemmeno troppo modesto, sarà la puntata più bella della storia di Piazza Alta. Perché? No, volevi che mi spogliassi proprio stasera. perché stasera parleremo di tennis e lo faremo con un grandissimo ospite, con Luca Vanni, che salutiamo. Ciao Luca, buonasera. Ciao, buonasera. Tutti lo sanno, ma lo voglio ridire, Luca Vanni è un tennista professionista, in questo momento è 150esimo o giù di lì al mondo e quinto in Italia. Attenzione, attenzione! Ecco, però basta con queste interruzioni. Luca Vanni, nato a Foiano, classe innata dal 1985, sotto rete da sempre, un'icona dei nostri tempi, partito in tenera età dal campo di Moschino con smash, ace, dritti e rovesci, scala la classifica internazionale, raggiunge vette da vertigini, una conferma che a Foiano le palle volano ma soprattutto girano, questa sera a Piazza Alta. My memories are gone. It's true. I don't even remember my name. I can't recall my favorite songs. I miss something that I don't know. It's very true. Drink to me, bright. Pensa, questa è la nuova uscita italiana, caro Marci, te lo dico a te. Sì. È la band tecnopop di Ivrea, i Drink to Me. Incredibile. Eh? Tecnopop, dai. Esatto, l'ho già detto tecnopop? No, lo ripeto io perché mi sembrava una cosa intelligente da ridire. Esatto, fantastico. Oh, ma finalmente veniamo a parlare. E di... posso dire ai nostri radioascoltatori che la serata per me sarà molto difficile, perché nei periodi di pausa, quando ascoltiamo la musica, sia Enzo che Luca stanno parlando di qualche arabo. Cosa a me no, non allora, solo lontano, ma veramente difficile da concepire, perché è linguaggio tecnico. Cerchiamo di rendere partecipi tutti. Non credevo che nel tennis ci fosse un linguaggio così tecnico. Sì, non abbiamo ancora detto niente, però ma io voglio per gli appassionati stasera è la vostra serata. No, faremo in modo che non per sia per chi non è appassionato, ascoltatemi. La situazione è questa, faccio per fare un po' contestualizzare. Qui Luca, intanto buonasera di nuovo. Ciao, ciao, grazie buonasera. Di essere qua. Luca Vanni, tennista italiano, 151esimo al mondo dalle ultime classifiche ATP. Ma siamo 6 miliardi, voglio dire, capisci, certo. Marci? E tutti a giocare a e molti giocano a tennis, e lui quindi è 151esimo. Non è un caso. È quinto in e Italia. E a livello Italia è il quinto. Quinto in Italia in questo momento, classifiche ufficiali. Ecco, Luca, sappi che davanti a te appunto hai uno che è malato di tennis, che sono io, e uno che pensa che Panatta e Borg hanno smesso, sì, ma da molto poco, vero? Ma io mi ricordo ancora, mi sembra di essere stato di recente a vedere Panatta Borg. Arbitrava Edberg, se non sì, mi sbaglio. Sì, va bene. Anita. Okay. Allora, Luca, come capirai, la situazione qui è rilassata, però siamo può degenerare. E può degenerare sicuramente. Siamo molto curiosi però di sapere un po' di cose da te. Mai ci è capitato di avere un ospite così importante, quindi approfittiamo subito per entrare un po' in questo mondo. Con un po' di domande facili. No, intanto Luca è foianese, ovviamente, per chi non lo sapesse, è del nostro paese assolutamente. A che età hai iniziato a giocare a tennis e dove? Da Moschino, come diceva Marcello, oppure da altre parti? No, sinceramente è una casualità della vita, ma la prima volta che ho giocato a tennis è stata a Foligno. Ah, poi dopo penso capiremo perché. Foligno, rinomato. No, a 8 anni e per... così casualmente con un mio amico, e lì fu la prima volta in cui presi una racchetta in mano. Dopo 2 mesi iniziavano i corsi invernali a Sinalunga, io abito ovviamente qui vicino a Sinalunga, e ho detto ma perché, non mi piaceva, e avevo provato a giocare a calcio, a pallavolo, così, però non ero portato, ma non mi prendeva, e ho iniziato così per divertimento, insomma. Sì, perché tra l'altro Luca Vanni, per chi è diciamo di queste zone, sa che il cognome è legato sportivamente alla pallavolo, la famiglia, insomma, e non solo di queste zone, perché tutta la famiglia ha giocato a livelli altissimi, quindi, tra l'altro ne abbiamo un po' accennato in una trasmissione passata di qualche settimana fa sulla pallavolo, infatti. E quello ti volevo chiedere, in casa, il fatto che tu non abbia scelto la pallavolo ma il tennis all'inizio, come è stato preso? No, vabbè, la cosa che era importante ovviamente per i miei genitori è che facevo sport e che fossi felice, insomma. Ma poi mio babbo comunque è uno sportivo, certo. E anche uno dei tanti, ma ovviamente vicino a me, che mi ha aiutato fino ad oggi a continuare in questa mia scalata. Però è stata presa bene, no? Certo, ci voleva qualcheduno che cambiasse oltre. Tutti sportivi, fratelli, cugini. Certo. Quindi. Io Marzi, se vuoi continuo con delle domande vere, ma se vuoi dire delle cose che ti no, vengono no, in mente. Io vi guardo abbacinato. No, vai pure. Te, Luca, quando è che hai capito che il tennis poteva essere qualcosa di più del fatto di andare a giocare e divertirsi il pomeriggio, come faccio io? Insomma. Pare che abbia. Che mi sembra di aver sentito dire in giro che quando ha visto te giocare a tennis, ha detto: allora io so grande, io posso fare l'astrofisico nucleare. Invece è quello che mi dicono in tanti, visto che mi dicono: cavolo, se ci sei arrivato te qui, ci possono arrivare tu. No, però gli stimoli comunque li trovi. È una seriamente, perché comunque a 29 anni, dopo soprattutto l'infortunio dell'anno scorso, con una classifica raggiunta poi, a 270 del mondo nel 2012, non è facile rimettersi in gioco e dire: no, ci voglio riprovare, voglio fare io mi sentivo di dare ancora questo sport. E insomma, per ora sono stato ripagato su questo, capito? Tra l'altro, come si vede anche un po' con altri professionisti, eccetera, non è più uno sport a cui a 30 anni si smette. Insomma, voglio dire, ci sono esempi che arrivano a 35 anni a livelli altissimi. Basta, quindi, guardare insomma, comunque sui primi 100 del mondo oggi, magari negli anni 90, pensa Sampras ha smesso, esatto, a 30 anni, comunque tanti hanno smesso. Penso che oggi con le fisioterapie, l'osteopatia, tante piccolezze riescono a così a andare più alle lunghe. Guarda Federer, guarda Ferrer, se prendi i primi 10 comunque non ce n'è, tolto Dimitrov e Raonic, comunque hanno anche loro 23-24 anni, sì, sì, non sono, sono sempre, sono tutti intorno ai 30, 33, 32, 34. È vero, tra l'altro, mi sembra, scusa Enzo se mi intrometto, ma io guarda, ha fatto dei nomi che mi risulta che sono in scaletta per le prossime puntate. Quindi ora Federer ha accettato, ha commentato la foto. Sì, ecco, io volevo salutare questo tale Ruggero Federer che ci ha messo mi piace su, sulla foto con Luca. No, rimango veramente, cioè io a me, per me un'ora con Luca è veramente niente, ma ogni tanto però guardo la faccia di Marcello che quando fa dei nomi, Luca, che io, no, ma io ti guardo che sei proprio in crisi mistica. Io vorrei dire tante cose. Ora diciamo diamo sfogo anche un attimo alla musica e poi rientriamo, perché ho delle curiosità che spero che siano intelligenti, no ma interessanti. Hey! Hello, ecco, si è svegliato Renzo. Martin Solveig, questa allora è del 2010 e io questa la conoscevo perché nel video, nel video, caro il mio Marzi, ci sono Djokovic e Monfils che giocano sul centrale di Parigi. Tutti insieme. non so proprio quello che sto dicendo. Stavano prendendo, cioè, aspettando un treno. Io volevo chiedere, perché nell'intervento precedente Luca mi ha fatto stuzzicare un po' la curiosità. Sì. Lui è giovane ancora, non ha 30 anni e secondo me, da quello che ci ha raccontato finora, lo sport, soprattutto quello a questi livelli, è anche sacrificio. Quasi oltre che impegno fisico, è anche sacrificio di tempo, di trasferimenti, di soldi. Volevo sapere di più di questi aspetti. Sicuramente all'inizio, quando inizi la carriera, sacrificio andare a partire il venerdì perché magari volevi stare con la ragazza, con gli amici, fare le tue serate, e insomma quello è un primo sacrificio che devi passare alla svelta se vuoi arrivare. Poi ovviamente il sacrificio dei trasferimenti, perché fusi orari, aerei, treni, transportation, mille cose, non una settimana, ma calcolalo per 30 settimane, 35 settimane all'anno, inizia a essere roba quando ti sposti da meno 6 ore a più 10 ore e poi devi scendere in campo, la temperatura, passi da... quest'anno sono stato a Taiwan, c'erano 45 gradi, dopo una settimana sono andato ad Astana e ce n'erano 20, è difficile... Poi sacrificio ovviamente economico, perché... ti interrompo solo un attimo, perché uno magari che segue il tennis superficialmente pensa ai top player che guadagnano tanti, tanti, tanti soldi, ma mentre fino a che non arrivi lì o quasi sono spese enormi. Sì, sicuramente sono spese enormi. Ovviamente ci sono anche delle entrate, certo, grazie anche molto ai campionati... la Serie A, come i campionati a squadre in Francia, in Germania, dove ovviamente vai per prendere dei soldi e ovviamente puoi reinvestirli sulla tua stagione. Non è che non è una rimessa essere 150 del mondo, no, certo. Ma neanche che la gente si pensi che metti 500.000 euro da parte. Esatto, però. Esatto. E per esempio, poi ci sono le gratificazioni che ogni tanto, cioè partecipare a Piazza Alta, beh, un invito a Piazza Alta, voglio dire, ecco. Se non sei almeno 150 del mondo non almeno. Può succedere, almeno. Sono stato fortunato che hanno fatto uno sgarro alla regola 151. Per altri sport tagliamo molto prima, A proposito di questo, no, di tagliare ma di sacrifici. Sappiamo che per esempio la Federazione Italiana, la FIT, la Federazione Italiana Tennis, a volte aiuta alcuni giocatori. Pensavo fosse la Federazione Italiana Tabaccai. No, esiste veramente anche FIT, Federazione Italiana Tabaccai, hanno lo stesso acronimo, però vabbè, parliamo del tennis. E magari hanno aiutato tennisti. Te hai mai ricevuto qualche aiuto, magari non solo economico, oppure come allenatori, stage, qualcosa del genere? No. Ecco, okay. No, ma esaurita questa domanda, mi sembra un'ingiustizia troppo grossa. Per no, non sono ingiustizie. Ovviamente c'è ragazzi che se lo meritano o che se lo sono meritati prima di me, in quanto la federazione aiuta magari i top under 18, under 20, sì, facendo anche qualche eccezione per gli under magari 21, 22, se ci credono realmente che possano emergere, insomma, nel mondo. Però per quanto riguarda il mio caso, no, niente. No. E ti faccio una domanda, ritorno un attimo indietro. Guarda, Marzio, ogni tanto entra perché io parlo solo io veramente stasera. No, te lo allora dico così. Ascolta, stai zitto perché volevo chiedere a Luca. Ho una domanda. Io, ecco, una notazione tecnica che guardandolo da profano questo sport, ma quella rete nel mezzo. Cioè, non sarebbe più agevole, più divertente togliela perché ecco, ha una funzione. Questa era la cavolata. In realtà la domanda seria era questa: al di là del fisico, diciamo, della preparazione atletica, eccetera. Quanto è importante la preparazione mentale, il carattere? Si può formare, diciamo, ci si può allenare anche mentalmente, caratterialmente, a uno sport che, come stiamo cercando di capire, è impegnativo sotto tutti i punti di vista? Quello è sicuramente, uno ci nasce, nasce con un carattere. Sicuramente il carattere può essere limato, può essere un po' modificato, non potrai mai fare degli stravolgimenti completi, insomma, però sicuramente è un punto fondamentale di questo sport, anche perché oggi nel 2015-2014 quello che è, siamo tutti al 100% fisicamente, dal numero 1 al numero 1000 del mondo, sono tutti al 100% fisicamente, bene o male sanno tutti giocare il dritto, il rovescio, il servizio, le volée, quindi ci deve essere qualcosa che fa la differenza, e magari a volte magari uno è più cinico di un altro in determinati momenti del match, magari anche se gioca peggio magari vince, capito? E sicuramente una forza, soprattutto la differenza dai 150 ai 100 ai 50 molto probabilmente sta anche molto in questa caratteristica della testa. Se mi permetto di aggiungere, ma solo proprio da fan, ma sarebbe superfluo. E realmente, cioè, io sono stato anche a vedere Luca giocare, vedo molte partite di tennis, il livello di gioco è altissimo, già al 200° posto, ma anche di più. Il problema è che il tennis soprattutto ha dei punti che sono più importanti di altri, dei momenti più importanti di altri, e lì realmente la testa fa la differenza. Assolutamente. E infatti, ma questo ne parleremo dopo con Luca, in questa annata qua Luca la differenza con la testa sicuramente l'ha fatta, tant'è che ha fatto un'escalation clamorosa, ma di questo ne parleremo dopo. Quindi, in sostanza, togliere la rete sarebbe un problema in meno. Sì, alla fine di tutto sarebbe in meno. Dea pagana del sole sul campo centrale, spero in una volée di sguardi per me, io ti inspiro. Sì, mi piace guardare, godermi lo stile che hai e rodermi il cuore di Panarba, ma nessuno lo sa, no, nessuno lo sa. Nessuno immagina. Virginiana Miller, La verità sul tennis. Questo è un gruppo di Livorno, è il loro terzo disco. L'album appunto è La verità. No, scusami, l'album è, Simone, aiutami. La verità sul tennis è questo. È La verità sul tennis. Tutta la verità, nient'altro, La verità sul tennis. Ecco. Ora Enzo si è un attimo sfogato e rientriamo nella normalità della trasmissione. Siamo sempre con Luca Vanni, parliamo di tennis ad altissimo livello, perché altrimenti ne avrei potuto parlare. Scusa, io. Scusa, volevo salutare un nostro un po' di amico. No, no, un amico che ha messo mi piace ora sul sito. Raffaele Natale. De Fuiano. Natale. Natale, no, questo da Scesa, al quale mandiamo un caloroso saluto. No, lui è un isolano, quindi sarà l'isola maggiore sul Castiglione del Lago. Un saluto serio, Isola Polvese. Un saluto serio, se mi permettete, a Massimo. Sì, poi tra l'altro dovremo salutare, ma dopo, anche gli amici che ci seguono su Facebook. Ricordiamo anche il nostro canale YouTube, su cui potrete rivedere anche questa intervista con Luca Vanni. E grazie a Paolo che sta facendo le riprese e che risalutiamo. Il canale YouTube si chiama Piazza Alta, come ovvio che sia. Ma ritorniamo a parlare con Luca. Marzi, inizio io. Guarda, è un piacere sentirti e soprattutto sarà un piacere interromperti. Allora, intanto Luca, dove ti alleni adesso e chi è il tuo allenatore? Appunto quello che si diceva prima, che ho iniziato per la prima volta, ho giocato a Foligno, esatto, in un campo da tennis, mi alleno a Foligno, mi alleno. Ecco, vedi? E ora infatti stiamo per pubblicare una foto proprio che hai fatto oggi stesso. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, insomma, per noi Foligno è anche una piazza conosciuta. In che senso? No, in una vita precedente abbiamo calcato anche le assi dei palcoscenici di Foligno. Sto dicendo a caso perché non mi ricordo. È vero, sì, è vero, va bene, ma non siamo qui per noi. Allora, però in effetti siamo qui per voi. Esatto, vogliamo però contestualizzare un po' di più, perché magari c'è gente come Marcello che non ne sa niente. E quindi ti faccio una domanda base, Luca. I tornei si suddividono in più, diciamo, vari livelli, categorie. E si inizia dai Future, che sono da $10,000 a $15,000 a $15,000 con ospitalità. Ecco, la cifra riguarda il montepremi. Il montepremi, ovviamente. Esatto. Sì, sì. E ovviamente ogni differenza di montepremi e anche la differenza se con ospitalità o senza ospitalità, certo, porta ovviamente dei punti in più o in meno, ovviamente. Questo è un aspetto importante, il turismo e l'ospitalità, l'accoglienza. No, non è in quel senso lì, nel senso che ti pagano l'albergo. Ecco, partiamo proprio da questo, perché tu, e ora iniziamo a parlare un po' di questo splendido 2014 per te, Luca, penso di dire correttamente, tu hai iniziato da oltre 800esimo al mondo. Sì. A inizio anno, anche perché venivi da un infortunio importante, sì, che ti era successo. Mi ero lacerato, ho lesionato un buon 60% di tendine a rotuglio, più avevo una rottura del menisco e dei problemi alle cartilagini. Ecco, quindi diciamo far bacco, no, diciamo tutto che insieme. Magari per fare l'impiegato non è un problema, ma per giocare a tennis no, ero in Australia, ero andato in Australia per giocare ai tornei, però era l'inizio della stagione del 2013, però sono dopo il terzo torneo sono dovuto tornare perché non, diciamo che non camminavo più, non stavo più in piedi, mi faceva malissimo e ho fatto la risonanza magnetica e è venuto fuori questo che vi ho appena detto e dopo 10 giorni mi sono operato. E da lì praticamente è finita la stagione 2013? Praticamente sì, perché comunque stai fuori da prima l'operazione a dopo l'operazione a quando rinizi a giocare alla sicurezza che devi riacquistare per quando sei in campo, insomma, passano mesi e mesi e mesi e diciamo che sei stato fuori 6 mesi buoni e poi te l'ho detto dopo quando devi riprendere a fare partita non è come certo, non è che parti, rimetti in moto la macchina e va al motore, capito? E quindi diciamo nel 2014 sei ripartito con i Future. Sì. E a un certo punto del 2014, aiutami a ricordare, marzo, aprile? No, forse sì. Hai iniziato a vincere. No, ma sinceramente ho iniziato una come si dice, una striscia positiva. Per vincere intendevo tornei, sì, sì. No? Che non vincessi no, le partite. Certo, no, però dico che anche a febbraio ne avevo 22, ne avevo 20 indoor. Quindi esatto. Da 850 del mondo, dopo i primi 4-5 tornei, ero già insomma circa 550esima posizione mondiale. Dopo è stato da fine, sì, forse marzo, in aprile forse, dopo è stata una escalation di tempo 8, 8 tornei di fila o 9 tornei di fila giocati con 5 vittorie e 4 semifinali. È una cosa incredibile, veramente. Quindi, ecco, che cosa scatta, Luca? Cioè, che succede? Ti senti invincibile? No, no. Sei tranquillo, i colpi escono? Vai sicuramente come se ritornava quando giochi magari con un giocatore di livello, tra virgolette, un po' più basso. Magari hai quella fiducia e quella cosa in più che ti fanno vincere, neanche te ne accorgi. E poi magari quando trovi delle partite più un pochino più complicate, hai quella fiducia, quella sicurezza, quella tranquillità nel giocare quei punti importanti come un punto normale, che alla lunga ti fanno, magari ti portano a vincere la partita. Ecco, allora, io non capendo niente dal punto di vista tecnico, mi piace più il colore, e io vorrei sapere il rapporto tra il giocatore e l'arbitro, e il pubblico, l'arbitro di sedia, le contestazioni. Lui, che vede, giocatore lui, sei? Lui vede il calcio. Ah no, no, questa è però una bella domanda invece. Che giocatore? No, scusa, scusa, bene. No, sono un po', sono critico, sicuramente sono critico. Di due o tre volte mi è capitato di poter arrivare quasi alle mani ecco, con l'arbitro. Statisticamente, per uno che non segue troppo come me, l'arbitro, come si chiama? Sedia. Il giudice, no, di sedia. Il giudice, quello l'arbitro che sta su in alto, sì, sì, il giudice di sedia, di sedia, viene preso spesso a bersaglio? No. Dipende. A pallettate? No, no. Ci no, sono no, casi sì, famosi, ma insomma no. Sì, ma no, non... Rostagno è un giocatore americano che le promise a un giudice arbitro, ma è rimasto nella storia proprio perché poi non succede. Ho un'altra curiosità, scusate, vai, se vai, stasera vai, no, mi sfogo, ma dove giochi te? In che ti, cioè, dov'è che ti esprimi meglio? Qual è sulla la superficie terra rossa? Migliore. Lo so, okay. Sì, penso di magari poter vincere con un top 50 o 40 del mondo più sul veloce. Cioè, la possibilità di vincere più sul veloce che non sulla terra. Però sono nato sulla terra, sono abituato a giocare sulla terra, e se ti devo dire una, mi piace di più giocare sul veloce o di più sulla terra, io ti dico 50-50. Tra l'altro, Luca, poi questo chiedigli, fatto, fagli sono nato sulla terra, secondo me la richiama terra, proprio molto la nostra qua, terra. Stiamo andando oltre ogni minutaggio possibile, ma non importa. Chiedigli a che velocità batte la prima palla di servizio. Ecco, per esempio, nel primo servizio che fai, che velocità puoi raggiungere? L'ultima volta ho giocato a Brescia, due mesi fa, ho fatto 2,27. 227 km ecco, orari. E per questa velocità che multa è rimasta? E quanti punti della patente? Eri andato bene fino. It's hot, tropical, you drip just like glue. That sunlight's burning into you. You're dripping all over. When it's hot, tropical, you drip just like glue. With that sun. Planet Funk, Lemonade, canzone estratta come primo singolo dall'album Greatest Hits della banda italo-britannica. Sempre banda, mai band, perché io ho una certa età e per me esiste solo la banda. Hai una deformazione proprio mentale. Intanto, pensa, scusami, che questo video, realizzato appunto per i The Planet Funk, è ambientato durante una partita di tennis e il vincitore vince una coppa piena di limoni. No, per dire, incredibile. Esiste anche l'Orange Bowl, ma questa è un'altra anche cosa. Luca stasera uscirà anche da anche il Lemon Bowl uscirà dalla nostra trasmissione un po' arricchito. Sì, dico. Volevo solo salutare un altro personaggio che ha messo mi piace sul nostro sito, Giovanni Meconi. Chi è Giovanni Meconi? Mecher ho letto capito, male. Capito. Accidente. A questo proposito volevo fare una domanda a Luca, che ogni grande sportivo, comunque soprattutto da ragazzo, da piccolo, quando inizia, ha degli idoli, ha dei personaggi a cui si ispira e che vorrebbe emulare, se non fare anche meglio. Te a chi ti sei ispirato? Mi era difficile fare meglio di quello con cui mi ero ispirato. Sampras. Meglio di Sampras ce n'è solo uno. Chi è? Rogerio. Quello che ha scritto mi piace. Al quale mandiamo un caloroso saluto. A Losanna, dove ci ascolta. Losanna. Allora, eravamo rimasti ai Future, che diciamo sono stati la tua rampa di lancio per quest'annata favolosa. Dopodiché, quando ne hai vinti un bel po', sei passato alla categoria superiore, che sarebbero i Challenger. Ci racconti un po' dove sei arrivato. Oltre il futuro c'è l'infinito, ve lo dico. Quali sono stati quelli più belli, quelli che ti hanno dato più soddisfazione quest'anno? Ovviamente dopo che raggiungi una determinata classifica, andare avanti con i Future è molto difficile, anche perché hai un numero di tornei per... praticamente ogni giocatore ha un massimo di 18 tornei per fare punti, non è per che accumulare uno gioca punti, esatto. 30 settimane, sennò giocherebbero tutte le settimane e chi più punti fa più punti mette, certo. Quindi ovviamente dopo una certa classifica ti devi buttare più a livello Challenger o ovviamente a livello ATP, perché comunque proprio il livello e le caratteristiche dei giocatori si avvicinano sempre di più. Sicuramente il più importante che ho fatto è stato quello in Taiwan di Kaohsiung come montepremi e come risultato, perché è stato il mio miglior risultato nella carriera, avere fatto finale e anche avere lottato con un giocatore che è il numero 38 del mondo e perdere 6-4 al terzo, per me è stata comunque una bella soddisfazione, però un grande, come si può dire, rammarico per perché non è che uno dice bravo, peccato, però peccato no, peccato ci si fa poco quando sei a un certo livello. Non è che è importante fare bella figura, l'importante è vincere. Io quella partita ovviamente l'ho vista in diretta. Naturalmente, ma aspettavo quasi che tu avessi anche partecipato. Ma no, sicuramente ero stanco e morto anche alla fine, perché veramente avevo partito il caldo anch'io. Ho partito il caldo io da qua, mentre lui era a 40 gradi praticamente. Ecco, ma sentirvi parlare mi ha fatto venire in mente una domanda che non c'entra assolutamente niente con quello che stavate dicendo. Tanto per cambiare. Vai. No, perché abbiamo parlato di carattere, di fisico. Vorrei capire oggi ai tuoi livelli la parte tecnica, diciamo i materiali, c'è delle accortezze, possono aiutare. Ma che c'entra? Io il fatto che faccio la trasmissione con te non vuol dire che sia un cretino qualunque. Magari mi documento. Ecco, volevo capire. Non so, siete quasi nudi, chiaramente, però le scarpette quasi ce l'avete, la racchetta ce l'avete, lo zaino in spalla ce l'avete. La tecnica quanto incide nelle prestazioni? I materiali tecnici. Sì. Ma i materiali tecnici. Guarda, che anche fare domande riposino è faticoso. Fagli no, i materiali tecnici non. Cioè, ovviamente ci sono tipologie di giocatori e tipologie di racchette. Sicuramente io gioco una racchetta che magari un altro giocatore farebbe più fatica a giocare, come magari io non potrei giocare con altre racchette. Insomma, sicuramente materiali, la qualità dei materiali di oggi rispetto a 25 anni fa sono tutte migliorate tantissimo. La qualità dell'abbigliamento, ma sono cose che non incidono. Sicuramente a livello tecnico, cioè proprio di gestualità, è quello che volevo arrivare a dire, che più in su vai e più devi limare delle piccolezze a livello tecnico, però sì, proprio certo. Non racchette, vi dicevo proprio di gestuazione, di gesto atletico. Guarda, siccome sto guardando l'orologio, purtroppo ho oltre 1000 domande da fare, quindi te le faccio una raffica così, allora intanto poi se vuoi puoi non rispondere ma lui te le deve fare, perché se no sappiamo che il servizio è quello che è, nel senso è potentissimo, sì. Velocità mostruose. Altro colpo importante per te, il migliore e il meno migliore, diciamo così. Due, diciamo che di dritto e di rovescio me la cavo abbastanza bene. Sicuramente il rovescio è un colpo più naturale, però ovviamente non, al tennis non puoi fare i punti con il rovescio, capito? Perché ti devi spostare di dritto e insomma fare buchi in terra. Il mio dritto ci sto lavorando, non è ovviamente chissà che cosa, però è quello dove devo lavorare, e soprattutto la ricerca della rete, nel senso di andare a togliere questa rete che mi dava noia, insomma. Vedi che alla fine della trasmissione magari fine sarà d'accordo con te. Esatto, arriviamo al punto che ho ragione anche. No, perché ci sarebbe anche un'altra curiosità che mi vorrei togliere, perché 227 km orari, una pallina che viaggia 227 km. A un certo punto magari sperando che non la chiappi, ma chi la va a riprendere poi? No, ma c'è il muro in fondo. Ah, ecco. Quindi diciamo siete un po' in gabbia tra reti e muraglie. Sì. Allora, niente, fammi fare due domande serie, Marci. Certo, allora, no, perché finora abbiamo scherzato. Esistono, come prima accennavi, dei campionati anche a livello nazionale, no? Sì. Tu sei stato campione d'Italia pochi anni fa. Sì, a squadre. 2011 con una squadra di Parma. Esatto, mentre adesso giochi per una squadra di Sinalunga. Il circolo dove sono nato. Esatto, a Sinalunga, che quest'anno l'hai portato in Serie A1. No, non l'ho portato, siamo andati in Serie A1 tutti insieme, e il prossimo anno disputeremo appunto il campionato di Serie A1. Beh, insomma, una grandissima soddisfazione. Sinalunga, e cioè, per Sinalunga, anche per me, per tutti, certo. È una bella soddisfazione per una, insomma, piccola realtà. Realtà, comunque pochi abitanti, e così è stato. No, è un grandissimo traguardo. Certamente. Vero. Intanto vorrei salutare un'altra persona che gradita o ospite ci ha messo mi piace sul nostro profilo, sì, Facebook. Alberto Beccherelli, Boris Becker. Ma infatti, al quale mandiamo un saluto. Deve anche salutare Stefano, vedrai che a un certo punto arriverà. Stefano, ma non ti preoccupare, ma lo vediamo dopo. Allora, e ancora un'altra domanda. Guarda, anche Andrea Cabassi, Andrea Gassi. Ma stai buono. Ma stasera pubblico fine veramente su Facebook, si stanno scatenando. Senti, la domanda sarebbe programmi per il futuro, ma ovviamente diciamo che per i tennisti a breve si riparte, sì. E te infatti fra un po' parti dall'Italia, e dove vai? Andrò in India il 30 di dicembre, e dove giocherò un torneo, le qualificazioni di un torneo ATP a Chennai, e dopodiché ci sposteremo in Nuova Zelanda ad Auckland, sempre per le qualificazioni di un torneo ATP, e poi Australian Open a Melbourne. Cioè, ora forse magari qualcuno. 15 gennaio insieme a Insino anche. Sì, e io magari potremmo organizzare una trasmissione. Sì, una diretta dall'Australia, perché no? Praticamente diciamo che dal 2015 ti vede protagonista proprio nei tornei ATP, partendo dalle qualificazioni ancora, perché la classifica ti permette di fare quelli, però insomma diciamo è l'ultimo passo. Sicuramente sì, spostarsi un po' sui tornei ATP o comunque alternare sempre comunque a Challenger, in base, sì, certo. Come hai detto prima te, non è che potrai programmare da qui fino a giugno, i programmi li facciamo magari a 4 settimane. Okay. Ecco, a questo proposito, il rapporto tra il giocatore e il pubblico com'è? Ma perché? Ma ti condiziona nel tuo gioco? Beh, però cioè, potrebbe dare fastidio. Senti se il pubblico ti appoggia, ti sostiene. Sì, quello lo senti, però su tornei dove c'è tanta gente, più ce n'è e meglio è, perché ti isoli, non senti niente. Ti isoli meglio. È vero, se c'è solo uno che vuole. Se c'è 10 persone, le senti tutte e 10. Se ce n'è 5.000, tanto posso dire quello che gli pare, non sento niente. Guarda, c'ho da fare altre 22 domande, ma le facciamo dopo la prossima canzone. We'll be right back. A-G-E-N-I-S-T-O-N-I-G-H-T. Tennis, caro il mio Marzi, dance song. Tutti insieme. Dai, questo è un gruppo indie rock inglese. Indie rock, talmente, mezzo indiano e mezzo rock. Sì, e mezzo rocchiano. E talmente appassionati di tennis, questi, che hanno scelto addirittura i propri nomi d'arte. Pensa, quali sono legati ai grandi del passato. Ci sono il Bob Becker, Tom McEnroe, Kev Perry e alla voce Bjorn Korg. Cioè, e questo sono quelli praticamente che ci hanno salutato prima su Facebook. Esatto, evidentemente non tutto sei tutto quello solo. Che dici non è... Ecco, qui va a finire, ragazzi. Voi che l'unico che dice cose serie se ne leggiate, ma l'unico che dice cose, se diciamo, capibili da, comprensibili dal pubblico non pagante. Ah, allora, ancora altre tre domande serie e poi dopo lascio la palla a te, Marzi. Tiriamo un sospiro. Hai fatto per la prima volta, Luca, le qualificazioni a una prova del Grande Slam quest'anno a settembre, US Open. Raccontaci qualcosa, che ne so, delle sensazioni, ricordo balordo, perché è stato, purtroppo quest'anno ho 3 o 4 partite sulle 150 che ho disputato, di cui non sono stato contento di me stesso, addirittura direi deluso di me stesso, e una è stata quella degli US Open. Capita, a me capita spessissimo. E non a tennis. Ne parliamo con il mio analista praticamente 2 volte la settimana. No, sicuramente come esperienza è stata bellissima, perché sei in una realtà diversa da tutto, da tutte le città del mondo, perché secondo me come New York penso ci sia solo New York, e ovviamente anche lo stadio, il tutto flash in middle, insomma, degli US Open è una cosa quasi irreale, e ovviamente è stato sempre il mio sogno quello di giocare una prova del Grande Slam, anche perché mi ricordo, e qui cito solamente Federico Luzzi, che è stato un giocatore di tennis, certo, a livelli alti, e amico, scomparso un po' d'anni fa, sì. E che mi disse proprio: intanto come primo obiettivo mettiti quello di giocare una prova del Grande Slam, e infatti della qualificazione di una prova del, certo, Grande Slam sono riuscito, quindi insomma forse la pressione è stata proprio tanta, cioè magari sì, io non pensavo, anche perché sono andato comunque prima, molto prima, a New York, mi sono allenato, mi sono ambientato benissimo, non pensavo minimamente di sentire tutta quella pressione, ero tranquillissimo, però è capitato che durante la partita non mi riuscivano un po' di cose, sono andato nel caos più totale. Ma ti rifarai a brevissimo, di questo ne siamo certi. Sicuro. Con Marzi che guarda sempre stupefatto, perché forse non ha capito ancora una parola, ma non importa. Volevo fare invece un'altra domanda. New York è sempre New York. New York. È un po' come New Londra, York, che non è più la Londra di una volta. Sono scondivido, ecco. Senti, sinceramente, se vuoi rispondere, se no non importa. Ti sei prefisso una posizione per fine 2015 in classifica ATP? Ma ancora siamo in fascia protetta. 60 top. Perfetto. Top 100. No, top 100 sicuramente, dentro i primi 100 del mondo. chiudo qui, dentro il centro del mondo. Poi dove si arriva, quello, certo, sicuramente. Io cercherò di fare il possibile al meglio delle mie potenzialità. Certo, certo. E noi che cosa possiamo fare anche per aiutarti, per sostenerti e darti una mano? Un sostegno, un sostegno, sostegno morale. Non chiedere soldi, ma tutto il resto fai pure. Faccio l'ultima domanda, quella che mi sono preparato da una settimana quando Luca ha detto che veniva qua. E allora, no, giovedì prossimo non saremo in onda per le... Aspetta. Sei il quinto italiano al mondo, sei il quinto in classifica italiana. La Coppa Davis, ci hai pensato? Secondo te ci sono speranze? Scusa, scusa, volevo salutare Adriano, un altro amico Mannat, che ha messo Panatta. Adriano Panatta, sì, al sì, quale mandiamo un saluto. Esatto. Scusa, Enzo, vai. No, a parte le battute, sei il quinto italiano in classifica. Normalmente, correggimi se sbaglio, vengono convocati 4 giocatori per la Coppa Davis. Vengono convocati 4 più, con una riserva, esatto, che non ha diritto di giocare una volta che però sei là, però comunque può partecipare, partecipa a quella Davis, alla spedizione. Alla spedizione. Secondo te? Io penso che sarà dura sicuramente, però dipenderà anche da questo inizio di stagione, visto che comunque giocheremo... cioè l'Italia giocherà in Davis in Kazakistan, in cemento indoor, e i primi tornei appunto sono questi tre, sono sempre sul cemento outdoor, però comunque sono quelli che disputeranno anche i vari Lorenzi, Bolelli, Seppi, Fognini, quindi sicuramente spero di poter far bene per dare un'altra volta una prova che magari una convocazione, certo, posso meritarmela, esatto. E poi se viene bene, se non viene lavorerò duro come ho sempre come fatto. Sempre. Io scusate, ho un dubbio. La Coppa Davis è la nazionale italiana di tennis. No, questo l'ho capito, no. Ma volevo dire, ma l'insalatiera sì, è un premio di quale? Di quale la Coppa Davis. Ecco, volevo capire però, ma i vassoi del secondo, chi l'ha vinto? Chi se l'è portato via? Cioè, è il momento più alto della mia, tra virgolette, carriera radiofonica, buttata le ortiche così, in un attimo. Vabbè, abbiamo strasforato. Io ringrazio... Anzi, noi ringraziamo Luca. E anch'io perché è stato al gioco. Sì, esatto. Per, esatto. Enzo, per quello che ha detto Enzo, per me erano chiaramente cose molto serie. Io mi dovrò un po' documentare per la prossima volta. E in ogni caso, il nostro contributo e il nostro sostegno lo diamo. Lo daremo e ci diamo... a questa malattia che Enzo non riesce a depennare nella sua passione per il tennis. E ci daremo appuntamento, guarda, al prossimo anno, che rifacciamo una puntata insieme per vedere come è andato l'anno. Certo. E poi magari ti facciamo un'intervista, che ne so, a Parigi, quando veniamo a vederti a giocare a Roland Garros. Va bene? Tutti va insieme. Bene. Grazie Luca e grazie a tutti voi. Buon ascolto. È l'ultima puntata. È l'ultima puntata dell'anno, perché non mi fai parlare. Giovedì prossimo è Natale, l'altro giovedì è il 31, quindi noi non saremo in onda. Ci risentiremo ad anno nuovo. Tenete duro, eh. Grazie a tutti, grazie a Simone, ciao Simone, ciao. Grazie a Paolo, ciao Paolo, ciao Paolo. E grazie a tutti, ci sentiamo l'anno prossimo, buone feste, buon fine anno, buon inizio anno, e viva buon anno e buon ascolto da 1976 Radio F. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzino e Marzi, alla conduzione tecnica Simone. Alle riprese Paolo. Paolo. In studio Luca. Uca. I keep my distance, but you still care.